Innanzitutto è stato un messaggio di molta vicinanza. Lo stile con il quale abbiamo fatto la riunione e poi anche il modo di parlare del Papa ci ha mostrato la sua preoccupazione per quello che facciamo, ci ha incoraggiato a mantenere questo spirito missionario, a non perdere la speranza e poi anche abbiamo parlato del bisogno di fare più forte, di approfondire di più la formazione dei nostri seminaristi che sperano un giorno essere ordinati sacerdoti. Lui ha insistito anche con questo e poi ci ha detto che dobbiamo continuare sì a mantenere questo spirito missionario e lui è rimasto molto contento quando le abbiamo detto che la Chiesa del Guatemala cerca di continuare quell'indirizzo che si è dato quando siamo stati riuniti ad Aparecida, Brasile. Com'è la Chiesa in Guatemala? Com'è la situazione del Guatemala in questi momenti? Beh, la situazione della Chiesa è una situazione che va sulla linea di quello che abbiamo dichiarato i vescovi che abbiamo partecipato nella quinta conferenza dei vescovi dell'America Latina e dei Caraibi a Aparecida, Brasile, cioè noi siamo consci di essere in un stato permanente di missione e perciò la Chiesa del Guatemala spinge con forza, spinge anche con molta speranza questa volontà di farsi diventare le nostre comunità, comunità missionarie. Da un'altra parte continuiamo con quello che sono i lavori pastorali normali, l'attenzione alle comunità e poi anche la promozione delle vocazioni alla vita sacerdotale. In questo anno abbiamo il numero maggiore dei seminaristi maggiori che abbiamo avuto in confronto agli anni scorsi, quindi questo anche per noi è un segno di speranza. E poi adesso stiamo preparando anche il congresso missionario del Guatemala che si realizzerà alla fine dell'anno 2018 in continuazione a questo spirito di vivere la missione, di essere veramente comunità di discepoli e missionari come il Signore ci vuole. Quindi io credo che la situazione della Chiesa è anche una situazione molto impegnativa nel senso di avere un spirito di trovare delle soluzioni ai gravissimi problemi economici, politici, sociali che abbiamo. In Guatemala il livello della povertà è aumentato, in Guatemala il livello della violenza, specialmente di quei gruppi che si chiamano le Mara, è aumentato, la insicurezza è aumentata, la migrazione è aumentata verso gli Stati Uniti e in tutte queste, diciamo, in questa area, in queste diverse situazioni, la Chiesa prende una posizione molto forte di stare in mezzo al popolo, di andare con il popolo e poi di illuminare la situazione con il nostro Magistero.